Buona domenica e benvenuti a questo quarto e penultimo appuntamento con le lezioni di jazz qui all'auditorium. Oggi parliamo di un musicista. Come sapete, queste lezioni di jazz seguono diversi tipi di approcci. In alcuni casi abbiamo analizzato in dettaglio un disco, un brano, e quello che faremo, per esempio, nella prossima e ultima lezione, fra 2 settimane, con Coco di Duke Ellington, quindi una sorta di anatomia, diciamo, del disco, del brano. Abbiamo fatto degli incontri legati invece a degli strumenti e abbiamo anche intenzione in futuro di fare una cosa del genere, cioè confronti stilistici sullo stesso strumento. È l'approccio che abbiamo utilizzato la settimana scorsa per mettere in parallelo Coleman Hawkins e Lester Young sul sax tenore, e invece in altri casi abbiamo fatto dei ritratti dei musicisti, come quello di oggi. Ritratto di Django Reinhardt, di cui ricorrono i 60 anni della morte, celebrati nel corso di questo 2013 in modi molto diversi. Diciamo, la celebrazione più importante, più ricca, è stata fatta ovviamente in Francia, in particolare alla Cité de la Musique a Parigi, che ha dedicato a Django Reinhardt una mostra molto bella, che purtroppo è chiuso, credo, un mese e mezzo fa, e che in una versione multimediale abbiamo portato al Torino Jazz Festival negli scorsi giorni. Perché Django Reinhardt in questo ciclo di lezioni di jazz? Perché Django Reinhardt è un caso musicale, storiografico, critico, strumentale, unico nel suo genere. E possiamo cogliere questa unicità da diversi punti di vista. Allora, tanto per individuare subito dei punti chiave, che poi proverò a approfondire e a spiegare, direi che Django Reinhardt rappresenta anzitutto un caso singolare di jazz europeo. Noi sappiamo che il jazz è una musica americana, ma qui abbiamo un gigante del jazz nato e cresciuto e maturato musicalmente in Europa, per giunta proveniente da una cultura manouche, quindi ancora più singolare dal punto di vista culturale. In secondo luogo, un altro aspetto che dovremo affrontare è che questa cosa raramente viene sottolineata in tutta la sua forza, e noi lo voglio fare invece da subito. Django Reinhardt è praticamente il moderno inventore della chitarra solistica. Al di fuori della musica classica, quando voi vedete i chitarristi rock virtuosi che suonano, Jimi Hendrix, Charlie Christian, beh, la chitarra è diventata uno strumento solistico grazie a Django Reinhardt. E Reinhardt ha fatto sulla chitarra quello che, in un certo senso, Coleman Hawkins, abbiamo visto la settimana scorsa, ha fatto sul sax tenore. Ha inventato lo strumento solistico. Questi sono alcuni degli aspetti. E in più Reinhardt ha, come vedremo, mescolato il jazz, la musica popolare francese, la cultura manouche, creando una sorta di sintesi che oggi ci suona molto familiare, perché è molto vicina alla sensibilità nostra attuale di sintesi di musiche, di etnie e di culture diverse. Chi è Django Reinhardt? Tra l'altro, voglio aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo questa consapevolezza di Django Reinhardt perché siamo in Europa e siamo in una cultura non anglosassone. Come cercherò di farvi comprendere più avanti, Django Reinhardt è un problema per gli storici del jazz, soprattutto quelli americani. Perché essendo il jazz musica americana, o considerata tale dagli americani, esclusivamente americana, beh, data questa premessa, gli storici non sanno dove mettere Django Reinhardt. Ieri sera, preparando rapidamente gli ultimi ritocchi della conferenza, ho detto: fammi dare un'occhiata alla voce sull'Enciclopedia Britannica di Django Reinhardt. Non l'ho trovata. Sull'Enciclopedia Britannica non c'è una voce Django Reinhardt. E la voce Django Reinhardt su Wikipedia è abbastanza penosa, perché è la traduzione della voce Wikipedia italiana, la traduzione di Wikipedia americana, e è fatta piuttosto male. La voce invece di Wikipedia francese è fatta bene. Chi è Django Reinhardt? Django Reinhardt è nato in una comunità manouche, quindi una comunità di zingari che venivano, hanno una lunga storia, di Sinti in particolare, che venivano, come sapete, dall'India attraverso numerose peripezie storiche complesse, sono poi diventati, sono sempre stati popoli nomadi cacciati dall'India molti secoli fa e giunti poi in Europa e in diversi ambiti, in diverse zone dell'Europa, portando con sé una cultura molto densa, molto complessa, molto ricca, che ha, come dire, assimilato e sintetizzato tutto quello che queste comunità hanno trovato, incontrato nel loro viaggio da est verso ovest. Django nacque nel 1910 in un carrozzone ai confini fra il Belgio e la Francia. Tecnicamente è nato in Belgio, ma la cosa non ha nessunissima importanza per noi, semplicemente perché quando è nato il carrozzone della sua famiglia era parcheggiato in un'area dove i manouche si ritrovavano spesso d'inverno, vicino a delle cittadine belghe dove venivano accolti, e nasce con questo strano nome, Django, che vuol dire colui che si risveglia, colui che si alza, colui che si risveglia, colui che rinasce. Diciamo, questo è l'ambito semantico. È un nome, valeva la pena di ricordare il significato in lingua Sinti, perché poi, come sapete, più tardi, a partire dagli anni 60, questo nome è stato associato a personaggi cinematografici con un'operazione che ovviamente era di consapevole riferimento al musicista Django Reinhardt, perché di Django popolari ce n'è uno solo, appunto Django Reinhardt. Come sapete è stato associato a un personaggio interpretato da Franco Nero, appunto Django, una sorta di bounty killer, e oggi tornato in voga grazie al film di Quentin Tarantino, dove peraltro, proprio perché il nome è strano, se avete visto il film, Franco Nero fa lo spelling del nome Django, proprio per spiegare esattamente come si scrive e come si pronuncia. Reinhardt mostra fin da piccolissimo una notevole attitudine musicale. In effetti il padre stesso è un musicista, anche se il padre poi lascerà la famiglia abbastanza presto, a crescere Django sarà sostanzialmente la madre, e mostra un talento musicale formidabile. Naturalmente stiamo parlando di una comunità analfabeta sia da un punto di vista letterario sia da un punto di vista musicale, ma la forza del talento di Django è tale che rapidamente Reinhardt si inserisce, soprattutto a Parigi, nel mondo dei cabaret e della musica parigina. Certo, quando la famiglia Reinhardt arrivò a Parigi, non andò certo a vivere negli alberghi. Il posto dove Django Reinhardt è cresciuto e maturato e dove ha vissuto una bella fetta della sua vita era la Zone. La Zone era un posto non lontano da Place d'Italie a Parigi, da quella parte lì, diciamo, della città. Era un enorme campo nomadi in cui le persone vivevano in condizioni di estrema precarietà sanitaria, igienica, e vivevano dentro carrozzoni. Django Reinhardt è nato in uno di questi carrozzoni ed è cresciuto, ha vissuto in uno di questi carrozzoni. Notate, avevano anche il riscaldamento interno, c'è un piccolo camino, c'è un piccolo fumaiolo per far uscire il fumo, carrozzoni che venivano trasportati dai cavalli. Peraltro questo è un dettaglio non secondario, perché il possesso del cavallo che porta il carrozzone è un elemento di status. Django Reinhardt era un grande amante dei cavalli e quando ha cominciato a fare soldi con la musica è passato poi alle automobili. Django Reinhardt aveva una pazzesca passione per le automobili. Voi direte che ce ne importa, è un dato aneddotico. No, perché poi l'automobile serviva per trascinare il carrozzone. Cioè, Reinhardt è diventato, questo lo voglio chiarire subito, un musicista di fama internazionale, ma culturalmente nella sua vita privata è rimasto, non ha mai cambiato stile di vita. Chiedeva un sacco di soldi, con questi soldi si comprava delle automobili di lusso o dei vestiti sgargianti, ma poi preferiva vivere in un carrozzone piuttosto che in una villa, anche se lo sarebbe potuto permettere, o quando andava nelle camere d'albergo si portava tutti i cugini, gli amici, tutta la famiglia e l'inseparabile scimmia con la quale girava. Questo per dire che non si è mai imborghesito. Django Reinhardt è rimasto sempre se stesso, e questa è una fortuna per lui, perché si è goduto la vita senza adeguarsi al mondo che lo osannava, ma mantenendo il suo stile di vita manouche, cosa che peraltro dal nostro punto di vista borghese e non manouche ha generato la curiosità per un'infinità di aneddoti che sono nei libri che poi troverete consigliati alla fine e che io adesso qui non sto a raccontare perché vorrei soffermarmi sulla musica, ma che sono anche molto molto gustosi. Reinhardt suonava il banjo e suonava il banjo da ragazzino in dei locali. Parigi era, stiamo parlando del 1920, 21, 22, 23, come sapete siamo negli anni d'oro della Parigi degli anni 20 e gli ambienti in cui suona Django Reinhardt sono gli ambienti in cui viene fuori il valzer musette. Il valzer musette è una musica, sono dei valzer che hanno quel famoso sapore, no? Tipicamente parigino, francese, anni 20 e 30. Si suonava con una piccola strumentazione nella quale c'erano il banjo, che era uno strumento peraltro americano. Il banjo era arrivato dagli Stati Uniti. Questo è un primo dato interessante. Django non suona la chitarra occidentale, suona già uno strumento americano, perché Parigi era piena di jazz, era piena di musicisti americani e già dalla fine dell'Ottocento il banjo era arrivato in città, evocato perfino in alcune delle composizioni pianistiche di Claude Debussy. E Django suona in questi locali dove si balla e dove il suono dominante non è quello però del banjo, ma è quello della fisarmonica, che era arrivata attraverso virtuosi italiani, portata dall'Italia e da questi virtuosi in Francia, in particolare a Parigi, e diffusissima in questi locali dove si ballava. Locali che potevano essere, diciamo, di livello infimo, dove il livello, diciamo, di pericolosità, di malavita che c'era, poteva essere molto, diciamo, critico, o anche locali più borghesi, dove Django comunque suonava, e che approfittavano del talento di questo ragazzino che accompagnava col banjo violini, fisarmoniche, chitarre, contrabbassi in questi vals manouche. Già in questa fase, intorno ai 17-18 anni, Django Reinhardt compone dei valzer in stile musette. Questi valzer poi li inciderà più tardi, molto più tardi. Ovviamente quando parlo di comporre a orecchio, cioè sullo strumento, lui compone questa musica. E vorrei farvi sentire un lavoro che lui scrisse, non sappiamo esattamente quando, 16, 17, 18 anni, che poi è inciso più tardi, alla fine degli anni 30. È un pezzo che inizialmente si intitolava semplicemente Vals Manouche. E qui lo sentite suonare Django alla chitarra, accompagnato da una pianista. Qui lo stile chitarristico è maturo, una registrazione della fine degli anni 30, ma la melodia lui l'aveva scritta più di 10 anni prima, senza questi passaggi molto sofisticati. Sentite. Vagamente ispanica, col cromatico. Era il titolo originale, era Ciotti, Vals Manouche, poi ribattezzato Ciotti in questa registrazione del 39. Questo è, diciamo, l'humus della musica francese, con queste melodie quasi arabeggianti in alcuni punti, che tradiscono appunto l'influenza Manouche orientale nella melodia di questo semplice valzer. Ora, la cosa affascinante da esplorare è come la personalità di Django Reinhardt è maturata avvicinandosi al jazz. Allora, il jazz è una musica americana, anzi, una musica afroamericana, nata nelle comunità nere del sud degli Stati Uniti, in particolare a New Orleans. Ma poi, questo è un aspetto molto importante che dobbiamo considerare, poco dopo la sua nascita, il jazz si è rapidamente diffuso, prima negli Stati Uniti, ma mentre si diffondeva negli Stati Uniti, è arrivato quasi subito in Europa. Nel 1917, 18, 19, 20, mentre si incidevano i primi dischi di jazz a New York e a Chicago, a Parigi e a Milano, per fare un esempio, si suonava jazz, già. Com'era possibile? Era possibile perché erano arrivati dagli Stati Uniti uomini e merci, musicisti, spesso militari in alcuni casi durante la Prima Guerra Mondiale, che si ritrovano per esempio a Parigi a suonare, come l'orchestra di James Europe. Musicisti che scoprono che la Parigi, musicisti americani che scoprono che la Parigi della fine, dell'immediato dopoguerra è una città che ha bisogno di tornare alla vita, è una città ricca di locali, è una città con un grande fermento delle avanguardie letterarie e artistiche, e che trova questa città ricca di fermenti avanguardistici, trova nel jazz americano un elemento di novità, di freschezza, di rottura del gusto Belle Époque di fine 800, primi 900, un'energia, una liberazione sessuale, perché poi arriva Josephine Baker a metà degli anni 20 che danza a seno nudo con solamente un gonnellino a forma di bucce di banana, portando una libertà sessuale nei movimenti del bacino. Abbiamo fatto una lezione sulla danza, ve la ricorderete, abbiamo parlato di questi aspetti. Ecco, Parigi è l'epicentro di questa rivoluzione del gusto. Quindi la musica americana viene accolta a braccia aperte e i musicisti americani, anche nero-americani, vengono accolti a braccia aperte. Attenzione, non necessariamente i migliori. Noi sappiamo per esempio che Django Reinhardt da ragazzino ha ascoltato Billy Arnold. E chi è Billy Arnold? È un musicista di jazz afroamericano che ha suonato a Parigi nel corso degli anni 20. Se sentite i dischi di Billy Arnold vi mettete le mani nei capelli. Non è niente di che, non ve lo faccio neanche sentire per non perdere tempo. Però porta un gusto diverso. il gusto della batteria, il gusto dell'improvvisazione, il gusto del blues, che poi non suonassero un jazz di altissima qualità, nessuno poteva saperlo perché era difficile fare i confronti. I dischi di Louis Armstrong non arrivavano ancora in Europa alla metà degli anni 20. Allora, questo è un primo elemento. Un secondo elemento sono però, dicevo, gli oggetti, i beni, in particolare appunto i dischi, che si fanno via via più frequenti, diciamo, l'importazione di questi dischi diventa più significativa soprattutto verso la fine degli anni 20. E Django Reinhardt ha la possibilità di ascoltare del jazz americano, sia dal vivo, sia sui dischi, e ne riceve un'impressione fortissima. Qui siamo, diciamo, nei misteri, se volete, io spesso, leggendo le biografie dei jazzisti, capita spesso di, anche in quella di Gershwin, per esempio, capita spesso di incontrare testimonianze della serie, sì, suonavo la musica, poi a un certo punto ho ascoltato il jazz e mi si è aperto un orizzonte completamente nuovo. Lì succede qualcosa, evidentemente, a livello genetico, non solo culturale, come se una persona fosse in un certo senso predisposta a ricevere uno stimolo dall'esterno che gli fa scattare qualcosa che lo porta a una improvvisa, rapida maturazione delle proprie possibilità espressive. Quello che è successo a Gershwin e quello che è successo a Django Reinhardt. Questo incontro col jazz, in una sensibilità acutissima quella come quella di Django Reinhardt, porta alla capacità di fondere il mondo manouche, il mondo della musette e poi a improvvisare anche il jazz con il banjo o, come fa lo stesso Django, ormai intorno ai 16-17 anni, con la chitarra, perché il banjo comunque ha delle limitazioni, non ci puoi fraseggiare più di tanto. Mentre scoperto il jazz, Django scopre che la chitarra, che è uno strumento da valzer, non è uno strumento jazz, attenzione, lui ha in mano la chitarra perché è uno strumento per far ballare le persone e suonare le musette insieme alla fisarmonica, al contrabbasso e al violino. E allora sì, con questa chitarra Django, che ha una capacità, un orecchio fuori del comune, attenzione, il fatto di essere musicalmente analfabeti non vuol dire non avere talento musicale, al contrario, Django ha avuto uno dei talenti musicali più pazzeschi del mondo, aveva, chiariamolo subito, per esempio un orecchio, uno, secondo, il talento si misura anche da questo secondo aspetto, una memoria musicale fuori dal comune. Quando lui doveva imparare i pezzi, bastava un ascolto. Ci sono testimonianze che dicono, andavamo in studio e Django non conosceva il pezzo, bastava fargli sentire gli accordi un attimo e lui non voleva neanche sapere il resto, diceva, sì, sì, ho capito. E non aveva bisogno di memorizzare. Questo aspetto, fatemi fare una deviazione, questo aspetto di oralità nell'apprendimento dei brani musicali è caratteristico del jazz manouche e della musica manouche in generale. I musicisti imparano ad orecchio e lo fanno perché quelli che hanno il talento hanno un talento d'orecchio fuori dal comune. Il sassofonista Emanuele Cisi mi raccontava giorni fa che aveva suonato con il figlio di Django Reinhardt, Babik Reinhardt, e prima di un concerto Babik gli disse «Senti, facciamo anche dei pezzi miei?» E Emanuele ha detto «Volentieri, dove sono le parti?» «No, no, fa così, 10 minuti prima del concerto». «Allora, il primo pezzo fa così» e glielo suona. E lui dice, ma come, complicato, tema, accordi, c'è da improvvisare. Poi gli dice, senza aspettare, il secondo fa così, e glielo suona, e lui ormai si è già perso. Il terzo, quattro non lo suona, il terzo fa così. Non è che Babik stesse, come dire, con presunzione, buttandogli i pezzi così, come dire, vediamo se ce la fai. No, era sincero, come dire, che ci metti, dai, te lo faccio sentire una volta, si suona. Come se fosse la cosa più normale del mondo. Questo aspetto è anche legato ad un aspetto familiare che poi vedremo. 3 giorni fa al Festival Torino Jazz Festival abbiamo avuto il più grande erede, secondo me, di Django Reinhardt, che è il chitarrista e violinista Dorado Schmidt. Si è portato 5 membri della sua famiglia, il più piccolo a 17 anni, suona in un modo che non vi posso descrivere, è impressionante il modo in cui suona a 17 anni, nessuno di loro legge la musica. Nessuno di loro hanno studiato, il padre gli ha insegnato oralmente gli accordi. Quindi c'è questo aspetto di apprendimento orale favorito da un talento d'orecchio e di memoria fuori dal comune. Ora, questo aspetto è, come dire, nutrito dall'incontro col jazz, perché quando tu suoni il valzer manouche, come avete sentito prima in Ciotti, tu fai il valzer manouche, scusate, volevo dire il valzer musette, tu fai la melodia, la puoi abbellire, sei lì col banjo, ma poi quando si tratta di improvvisare è tutta un'altra storia. Dove ha imparato Django questo aspetto? L'ha imparato soprattutto ascoltando i dischi di un duo formidabile americano, il duo di Joe Venuti e Eddie Lang. E qui parliamo sempre di Cosa Nostra, in un certo senso, cioè tutti italiani, Joe Venuti, Giuseppe Venuti, Eddie Lang, chitarrista, in realtà si chiamava Salvatore Massaro e veniva... Eh sì, Eddie Lang era il nome di un giocatore di baseball che lui adorava, quindi ha assunto questo. Veniva da Monte Roduni, dove oggi c'è un festival in Molise, dove c'è, in provincia di Isernia, dove c'è un festival oggi dedicato a Eddie Lang. Questi due straordinari musicisti, che vedete ritratti in questa fotografia, erano due virtuosi a cui magari potremmo dedicare in futuro una lezione di jazz, perché sono due giganti della musica, secondo me un po' sottovalutati. E Eddie Lang in particolare è stato il vero primo grande chitarrista di jazz. Ma il suo solismo è un solismo, come sentirete, semplice, a note singole, molto marcate, era un accompagnatore formidabile, ma Django scopre anche, come dire, un suono particolare, che è l'accoppiata del violino e della chitarra, che è un sound, se ci pensate, che non aveva niente a che fare col jazz americano. Loro lavoravano a Philadelphia e poi a New York, stiamo parlando qui degli Stati Uniti, anche se erano di origini italiane. Allora vorrei farvi sentire come suona il duo di Django, Joe Venuti e Eddie Lang in questo disco della metà degli anni 20, Doing Things. C'è anche un pianista sotto. Armonici. Sentite i contrappunti della chitarra. Neanche fosse Bach. Arrangiata la musica. Vedete come swing l'accompagnamento. Thank you. meraviglia. E Django Reinhardt, ascoltando dischi come questo, ascoltando musicisti mediocri ma nuovi alle sue orecchie come Billy Arnold, tenta di uscire dagli schemi della valse musette e di provare a fraseggiare e a improvvisare, e ci riesce. Noi sappiamo che intorno ai 16-17 anni Django Reinhardt era uno dei musicisti più richiesti nelle sale da ballo di Parigi. Addirittura arrivò il più importante direttore d'orchestra d'Europa di musica da ballo, Jack Hilton, dall'Inghilterra. Una sera andò a sentire Django Reinhardt e gli disse: domani dobbiamo parlare perché io ti voglio nella mia orchestra. Era come se, per farvi capire, fosse arrivato Michael Jackson e dice: entra nel mio gruppo. Cioè praticamente il massimo che potesse succedere a un musicista. La sera in cui Jack Hilton andò in questo locale a ingaggiare Django Reinhardt, accadde una cosa tragica. Proprio quella sera Django Reinhardt, 18 anni, torna alla Zone, dove c'era il suo carrozzone, conviveva con la sua compagna che aveva sposato, e si mettono a letto, e a un certo punto, per un qualche incidente, il carrozzone prende fuoco. Lui si sveglia, mette in salvo la sua compagna, ma nel mettere in salvo la sua compagna, nel tentativo disperato di uscire dal carrozzone, ne esce, viene praticamente investito dal fuoco e finisce in ospedale pieno di ustioni. Tra l'altro, Django Reinhardt, come Manouche, come Zingaro, aveva una diffidenza assoluta nei confronti dei medici. Per cui il fatto che fosse andato in ospedale per lui era un dramma, una tragedia. Era appena sopravvissuto a questo incendio. Per salvargli la vita, alla fine si decise che era meglio amputargli una gamba e un braccio, per salvargli la vita. Lui e sua madre, che lo assisteva in ospedale, si opposero ferocemente. Non volevano amputazioni. Ovviamente lui soffriva le pene dell'inferno, aveva 18 anni, aveva il braccio sinistro completamente bruciato e soprattutto aveva la mano sinistra, che usava per suonare la chitarra, paralizzata dal fuoco. Questo coraggio nel non volere, nel rischiare la vita e nel non volere l'amputazione del braccio e della gamba è stato uno dei più grandi doni che Django Reinhardt ci abbia mai fatto, perché nonostante le sofferenze Django Reinhardt sopravvive e nel corso di un paio di anni di recupero torna lentamente a suonare, tra mille dolori che tra l'altro lo perseguiteranno ovviamente per tutta la vita, mille difficoltà, e qui interviene un altro elemento pazzesco legato al jazz. Quando Django Reinhardt ricomincia a suonare, si ritrova nella condizione di una persona fisicamente minorata. Ha perso completamente l'uso dell'anulare e dell'indice. Non ce l'ha più, ha 18 anni, era il musicista più famoso di Parigi. Jack Hilton era andato da lui. Tutto finito, ma con una forza di volontà che faccio fatica a immaginare, nel corso di mesi e mesi e tra mille dolori, Django prende la chitarra di nuovo e comincia a inventarsi una tecnica. Come Coleman Hawkins ha inventato il sax tenore, Django Reinhardt inventa il moderno solismo per la chitarra, ma non con tutte e cinque le dita, solo con due, che sono quelle che vedete nella foto. Occasionalmente, lo vedremo più avanti, con un terzo dito, usando il pollice, per suonare la sesta corda e fare degli accordi. Col tempo Django riuscirà anche a utilizzare mignolo e anulare per appoggiarli sulla tastiera e bloccare alcune note, alcune corde per fare degli accordi. Uno studioso che ha pubblicato di recente un libro di tecnica, diciamo di analisi tecnica di Django Reinhardt, ha mostrato come in questo modo Django riesce a fare delle cose ma non può farne delle altre. si inventa una tecnica e inventandosi una tecnica si inventa un mondo espressivo nuovo che fonde la tradizione lirica manouche, melodica, con i suoi elementi modali e orientali, che approfondiremo tra breve, il gusto melodico del vals musette e l'improvvisazione e lo swing del jazz. Succede qualcosa che negli Stati Uniti non sarebbe potuto succedere, una sintesi fra tradizioni musicali americane ed europee, come dire, concretizzate, maturate da un individuo fisicamente minorato, che quindi non può adottare una tecnica accademica. Django Reinhardt inventa la chitarra moderna, come vedremo, senza utilizzare una tecnica accademica. E il culto di Django Reinhardt nei decenni a seguire sarà tale che alcuni musicisti proveranno, per esempio, a suonare solo con due dita nel tentativo di aderire il più possibile allo stile di Django Reinhardt. Sottolineo un'ultima cosa: questo genio della musica riesce ad esprimere se stesso e, come vedremo, a rivoluzionare la tecnica dello strumento e la musica del Novecento grazie al jazz. Il jazz è una musica che consente alle persone, anche minorate fisicamente, di potersi esprimere in maniera piena, compiuta. Questo è un aspetto, perché non voglio dire che il jazz è meglio della musica classica, ma Beethoven o un pezzo di Mauro Giuliani, per citare un grande autore per chitarra, con quella mano così non lo puoi suonare, ma puoi esprimere pienamente te stesso ugualmente se adotti un altro tipo di linguaggio. Nel corso degli anni successivi, Django Reinhardt ha incontrato vari musicisti, ma ce n'è uno in particolare con cui aveva trovato un'intesa particolare, un musicista di origine italiana che si chiamava Stéphane Grappelli in Francia. Grappelli, che si dava delle arie da aristocratico, forse vicino a Django era anche facile, in realtà era figlio di un operaio e aveva un talento musicale notevole, aveva studiato anche lui da autodidatta, però leggeva la musica e comunque rappresentava, come dire, un'aspirazione borghese, di legittimazione borghese. Suonava il violino, ovviamente suonava il violino nello stile, ispirandosi allo stile che avete sentito di Giovenuti, perché Giovenuti era praticamente l'unico grande violinista di jazz. In realtà non è del tutto corretto dire, diciamo che era il più grande, ma a Parigi, alla fine degli anni 20, nei primi anni 30, erano passati molti violinisti di jazz neri. Per esempio Eddie South, che era o più tardi Staff Smith, due grandi violinisti neri, soprattutto Eddie South, che aveva una formazione classica e che avrà una grossa influenza su Reinhardt, ma non ha mai fatto il violinista classico per un banale motivo: aveva la pelle nera. Avete mai visto un violinista classico nero in giro? Qui all'auditorium neanche, mi pare. Eddie South era un genio del violino, ma essendo di pelle nera si è dovuto buttare sul jazz e ha viaggiato in Europa nel corso degli anni 20 e 30 e quindi ha incontrato anche Stéphane Grappelli. Ma la storia non finisce qui, perché Grappelli e Reinhardt si incontrano nei retrobotteghi, diciamo nei backstage delle sale da ballo, dove vanno a suonare con gruppi diversi. Grappelli suona con un gruppo, Django Reinhardt con un altro, si ritrovano e cominciano a suonare jazz insieme. Hanno tutte e due poco più di 20 anni, trovano un'intesa che, se non è umana, è perché l'uno è uno sregolato zingaro, l'altro è un proletario con ambizioni di perbenismo borghese, però si ritrovano musicalmente. Questo ritrovarsi musicalmente attira l'attenzione, questo è un altro passaggio veramente affascinante della storia del jazz, attira l'attenzione di un gruppo di appassionati che avevano fondato circolo che avevano chiamato Hot Club de France. Questo gruppo di appassionati aveva dentro un milionario aristocratico di estrema destra, che si chiamava Hugues Panassier, tanto per darvi un'idea della varia umanità che c'era dentro, e Charles Delaunay, che era il figlio di Robert e Sonia Delaunay, grandi pittori, che stavano, come dire, erano in primo piano nella Parigi degli anni 20 e 30. Panassier e Delaunay, che si detestavano cordialmente, avevano però fondato insieme questo circolo di appassionati, come poi ce ne saranno sull'esempio francese, tanti anche in Italia, in tutti i posti d'Europa e negli Stati Uniti anche. L'Hot Club. Cos'è l'Hot Club? È semplicemente una stanza nella quale le persone si ritrovano e siccome Panassier e Delaunay sono pieni di soldi, possono permettersi di comprare i dischi americani. Ma sono anche degli appassionati, non se li vogliono tenere per sé. Quindi si va in questa stanza, in questo circolo, a sentire i dischi di jazz americano, a commentarli, a discuterli, ad analizzarli. Si fanno delle serate di ascolto. Con il tempo l'Hot Club de France, sotto la guida di Panassier e di Delaunay, diventa sempre più importante. Viene pubblicato un bollettino che si chiama Jazz Hot, che come voi sapete è diventata una delle più importanti riviste di jazz del mondo. Non solo, Panassier e Delaunay cominciano a organizzare in questa stanza anche dei concerti con musicisti americani e francesi. Musicisti americani non particolarmente importanti presenti in Francia. In realtà in Europa in quegli anni c'erano diversi musicisti americani importanti. Questo è un altro aspetto per capire come nasce il jazz in Europa. Perché, l'abbiamo visto la volta scorsa, nel 1934 Coleman Hawkins lascia gli Stati Uniti per venire a vivere in Europa. E Django Reinhardt e Coleman Hawkins hanno suonato insieme. Prima si sono incontrati in jam session, poi hanno fatto anche dei dischi più avanti, molto importanti, nel 1937. Benny Carter, l'inventore della composizione per Big Band, ne abbiamo parlato ai tempi quando abbiamo fatto la lezione sull'Indie Hop, quello che scriveva le prime partiture di Indie Hop, era in Europa. Louis Armstrong, che farà il primo grande concerto importante di jazz in Italia a Torino nel 1935, recensito, pensate un po', da Massimo Mila. Tutti questi personaggi girano in Europa, quindi alimentano un humus musicale che quando incontra personaggi del genio di Stéphane Grappelli o di Django Reinhardt può esplodere in qualcosa di nuovo. Allora cosa fanno Delaunay e Panassier? Si accorgono del talento di Django e di Stéphane Grappelli e decidono, attenzione, non è una scelta dei musicisti, è una scelta di questi appassionati, decidono di fare un gruppo con questi due musicisti. Scelgono il bassista. E questo gruppo ha una formazione strana, stranissima, che non ha uguali nella storia, ma che è quasi il frutto del caso. E, chiedo scusa, è il quintet du Hot Club de France. Notate, non si chiama il quintetto di Django Reinhardt, si chiama quintetto dell'Hot Club de France. Porta il marchio dell'associazione che l'aveva messo insieme. Come è fatto questo gruppo? È fatto da tre chitarre. Una è una chitarra solista, quella di Django che vedete al centro. Ci sono due chitarre ritmiche, ben due, le voleva Django. Era abituato a suonare in particolare col fratello a sinistra. E il contrabbassista era il leader dei gruppi Musette con cui Django suonava fin da ragazzino, Louis Volat. E a sinistra c'è Stéphane Grappelli, il violinista. È un gruppo senza batteria, che era il simbolo del jazz. Ma Django non voleva la batteria, ma neanche quelli dell'Hot Club de France volevano la batteria, perché avevano capito che questo gruppo aveva un suono diverso che veniva dalle sale da ballo della Musette, ma al tempo stesso aveva un'energia jazz. E la chitarra era comunque uno strumento molto diffuso nella cultura manouche. Questo gruppo è veramente unico, un quintetto con tre chitarre, violino e contrabbasso. E le due chitarre che sono dietro non prendono mai a soli. Fanno quella che loro chiamano la pomp, cioè la pompa, il pompare proprio il ritmo, con swing. È un suono, ci tengo a dirlo, del tutto inedito nella storia della musica del Novecento e del tutto inedito nella storia del jazz. Non c'è nessun gruppo americano che ha questo suono, ma loro non se ne curavano, erano quello che volevano. Questo gruppo comincerà a girare la Francia, l'Europa, in concerti organizzati da Delaunay e da Panassier, ed è venuto il momento di ascoltare qualche pezzo. Prima li ascoltiamo e poi li commentiamo. Che cosa suonano questi musicisti? Suonano pezzi americani, gli standard, che amavano, che avevano scoperto ascoltando i musicisti americani in Europa, ascoltando i dischi, ma li suonano con questo sound completamente nuovo. Chitarra solista, violino solista, due chitarre ritmiche e contrabbasso. Questo è Lady Be Good. Cominciamo ad ascoltarlo e poi lo commentiamo. Il finale sembra proprio ispirato al pezzo di Doing Things che abbiamo sentito poc'anzi. Qual è il più clamoroso elemento di novità in questo ascolto che abbiamo fatto? È che il chitarrista suona a una velocità pazzesca. Fraseggia, è un solista. Ora, questo vi potrà sembrare ovvio, voi direte, certo, la chitarra è uno strumento solista. No, questa è la prima volta nella storia in cui la chitarra è uno strumento solista. Vi sembra forte come affermazione? La ripeto, così al podcast si sente due volte. Questa è la prima volta in cui la chitarra è uno strumento solista. C'è anche un bambino che non ci crede, ma quando sarà grande si renderà conto. Siamo talmente abituati all'idea che uno prende la chitarra e fraseggia che non si rende conto che Django Reinhardt ha abbattuto un muro, ha creato un territorio completamente nuovo. La chitarra è uno strumento solista, fraseggia, ha dei colori, alterni accordi a note singole, registro grave e registro acuto, con e senza vibrato, legato e staccato, tutto quello che si può fare. Django lo fa sulla chitarra e lo fa ad una velocità che non ha precedenti. Nessuno al mondo era in grado di improvvisare su quello strumento, uno. Due, nessuno al mondo era in grado di improvvisare a quella velocità sullo strumento. Attenzione, con due dita. Con due dita. Com'è lo stile di Django? Come costruisce i suoi assoli? Che tipo di logica segue? Prevalentemente, lo sentiremo anche nei prossimi ascolti, Django è un musicista della discontinuità. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che non so chi di voi fosse presente alla scorsa lezione, quella su Lester Young e Coleman Hawkins. Chi non c'era non sa cosa si è perso. Quando abbiamo analizzato... voi ridete, ma non c'eravate. Chi non c'era, ride chi non c'era, diciamo così. Quando abbiamo parlato di Lester Young, abbiamo visto come Lester Young costruisse i suoi assoli sviluppando dei motivi, quindi dando un elemento di coerenza e di continuità. E diciamoci la verità, in musica la parola coerenza sembra una specie di parola di magica, di valore assoluto. Una cosa è coerente e quindi funziona. No, ci sono anche delle situazioni in musica in cui funziona la discontinuità, la contraddizione, la continua diversità, il contrasto. Django Reinhardt è un musicista della discontinuità. Il jazz è pieno di musicisti della discontinuità. Il primo che mi viene in mente è Earl Hines, cioè un pianista che cambia continuamente suoni, registri, tipo di fraseggio. Mi viene in mente un musicista della continuità, penso a Bill Evans. Un musicista della discontinuità a suo modo è lo stesso Miles Davis, con i suoi silenzi, i contrasti, le note lunghe, i fraseggi articolati, eccetera. Django Reinhardt è uno dei maggiori musicisti della discontinuità. Fateci caso nei prossimi ascolti, forse non proprio nel prossimo, ma nei successivi. Cosa fa Django Reinhardt? Suona, per esempio, fraseggi molto veloci, poi li alterna con delle schitarrate ad accordi, due o tre accordi. Ogni tanto inserisce, lo sentirete, una cosa che gli viene poi più tardi dall'influenza di Lester Young, una nota ripetuta o anche dalla tecnica del mandolino, ripetuta molto rapidamente, un ribattuto. Poi suona delle note invece più melodiche, magari con un vibrato finale, con un vibrato molto, lo vedremo poi in un filmato, anche molto marcato. E poi ha una cosa tipica, che poi sarà tipica della chitarra jazz, ha un suono tagliente, ha un suono che buca, ha un suono secco, forte, ed è in grado anche di suonare in uno stile che sembrerebbe lontanissimo dal mondo manouche, dal mondo della valzer musette, il blues. Uno degli suoi assoli più clamorosi della prima metà della metà degli anni 30, con il quintetto dell'Hot Club de France, si trova in un pezzo celebre che è St. Louis Blues. Sentite com'è questo St. Louis Blues. Suona una chitarra amplificata, è una registrazione più tarda. Sentite la discontinuità. Thank you. eccetera. Ho un po', diciamo, rotto qui la continuità cronologica, facendovi sentire una realizzazione più tarda con la chitarra elettrica, dopo ne parleremo, perché volevo farvi sentire questa fusione assolutamente singolare tra questo fraseggio manouche e gli elementi del blues. È una cosa che, per esempio, come vi dicevo, i critici americani non riescono neanche a concepire. Nelle storie del jazz americane, Django Reinhardt, vi sorprenderà di saperlo, non c'è. Non ci sono neanche le pagine bianche, cioè proprio non c'è. Non c'è perché non sanno dove metterlo. Di recente stanno uscendo degli articoli, sono usciti degli articoli su riviste specializzate che io seguo, con titoli tipo Django Reinhardt, un problema storiografico. Ma sarà un problema per te, che pensi che, come dire, che il mondo sia solo statunitense, che il jazz sia solo statunitense. Vi ho fatto finora vedere delle fotografie di Django Reinhardt. Noi abbiamo dei video del quintetto. Il primo che voglio farvi vedere è muto. Voi direte che fregatura. Sì, è brevissimo, è molto breve ed è muto. Però ve lo faccio vedere lo stesso, perché è spettacolare il modo in cui si muovono i musicisti. Prima avete sentito Lady Be Good, lo swing che il quintetto aveva. Se Blues Blues è una realizzazione più tarda, senza Grappelli. Qui torniamo al quintetto. Guardate, anche senza suoni, con che swing e elasticità si muovono. Notate il pollice per fare gli accordi. Eccolo. Veramente avete visto con quanto relax. Questo tra l'altro ci dice un'altra cosa importante per il jazz europeo che è in embrione, che lo swing non è una prerogativa né degli americani né tantomeno dei neri, è un fatto culturale che si apprende. Questo vorrei che fosse chiaro, altrimenti facciamo dei discorsi razzisti. Sai, lui è nero, quindi ha più swing di me. Come se fossimo diversi geneticamente. Allora, quello poi, vuol dire, un ragionamento che può giustificare anche il razzismo. È diverso da me. Sì, lo so, vuoi più musica? E adesso l'ascoltiamo. Questa ha ragione. Qui abbiamo visto il blues, abbiamo sentito gli standard. Ora voglio farvi sentire come Django Reinhardt ha fuso la tradizione manouche, in particolare quella tradizione di melodie in minore, malinconiche, molto fiorite, con il jazz, prendendo melodie che fanno parte del repertorio orale delle melodie manouche. Una, per esempio, è Occiciornie, che lo stesso Reinhardt ha inciso più volte. Ma la prima che voglio farvi sentire è, stavo per dire, una sua composizione, è in realtà una melodia manouche che poi lui ha rielaborato, che si chiama Lacrime, Tears, ed è un pezzo di una bellezza incredibile. Lo ascoltiamo per intero. Stiamo parlando del quintetto qui, del quintetto The Hot Club de France, quindi con Stéphane Grappelli. Fraseggia tutto d'accordi. Mm. pezzo meraviglioso. Il prossimo pezzo vi faccio sentire è praticamente ha la stessa struttura di So What di Miles Davis, The Kind of Blue. Coloro che non sono venuti al primo incontro che ho dedicato all'analisi di So What e al jazz modale possono ridere, naturalmente, come avete fatto prima, perché abbiamo già spiegato che cos'è la modalità nel jazz, cioè il suonare su delle scale anziché su dei giri di accordi. E poiché la cultura manouche viene da una cultura legata in parte al mondo balcanico, in parte al mondo più orientale dell'India, è una cultura sostanzialmente modale, cioè basata su delle scale e non su dei giri di accordi. Quindi Django Reinhardt aveva una, come dire, una forma mentis modale, puramente melodica, non armonica, in cui poteva accostare degli episodi melodici molto diversi fra di loro. Io adesso non posso qui rispiegare, a parte gli scherzi, proprio il concetto di modale come l'abbiamo spiegato nella prima lezione, ma basti, per chi non c'era, basti dire che non abbiamo degli accordi ma semplicemente delle aree in cui si suonano pure melodie, poi ci si sposta su un'altra area statica dove si ascoltano delle melodie. Bene, alla fine degli anni 30 Django Reinhardt incide con il quintetto una propria composizione che si chiama Appel Indirect, che è un pezzo modale esattamente come So What di Miles Davis, fatto dall'accostamento di aree melodiche accostate liberamente. Questa, la prima è questa. Statica. Come So What, mezzo tono sopra. Identico. E come So What, torna. Improvvisa sopra. Basso e fermo. Mezzo tono sopra. Continuità, blocca su una cosa, poi fa gli accordi. Una cosa che tornerà poi nel rock, questi riff con la chitarra. Trappelletti. Blu 20 anni prima. Tema. L'ultimo brano che voglio farvi ascoltare di questa serie di legate alla tradizione manouche è il pezzo più celebre, uno dei due pezzi in realtà, l'altro è Nuage, più celebri di Django Reinhardt, ed è Minor Swing. È di quei pezzi che, se siete un chitarrista e volete fare i fighetti e volete far vedere che conoscete Django Reinhardt, di solito si cita l'introduzione, la coda di Minor Swing per far così dare la gomitatina e far capire che tu sei di quella parrocchia lì, sei uno alla Django. È un pezzo celebre, adesso ve lo faccio sentire, lo riconoscerete, e direi di ascoltarlo. Questo elemento manouche dove si trova? Si trova nel tema minore che c'è all'inizio e che si fonde poi meravigliosamente con invece lo spirito più jazzistico americano delle improvvisazioni del quintetto. Questo è. È un'evoluzione manouche del duo di Eddie Lang e Giovenuti, no? Chitarra. E poi si improvvisa. Sentite la ricchezza melodica, inesauribile, non c'è una frase uguale all'altra. Ricordatevi come si muovevano in quel filmato. Favoloso, allo swing dell'orchestra di Count Basie, ma sono zingari italiani e per forza, quindi hanno lo stesso swing, diciamo uno swing mediterraneo, davvero, uno fa una battuta ma è così. L'ultima cosa che voglio cogliere di questo aspetto manouche, prima di andare avanti, è le ambizioni, anche nello stile manouche, di Django Reinhardt come compositore. Reinhardt, abbiamo detto, era analfabeta, ma era perfettamente consapevole. Sappiate che ci mise, tra l'altro, moltissimo tempo sotto la spinta e l'aiuto di Stéphane Grappelli a, per esempio, imparare a mettere la firma sui contratti, ad esempio, perché veramente lui non andava oltre la X. Tra l'altro, alla mostra di Parigi e a quella che abbiamo portato a Torino, ci sono dei documenti commoventi che sono le lettere, poi ne parleremo quando Django Reinhardt va negli Stati Uniti e ci sono queste 3-4 facciate scritte con grandissima fatica, l'amico Grappelli, nelle quali racconta che cosa vede, che cosa sta vivendo negli Stati Uniti. Immaginiamo una fatica dura, lunga, pesante nello scrivere queste lettere. Ma Django Reinhardt aveva ambizioni di compositore, lo credo, aveva scritto Minor Swing, Tears, già solo questi tre pezzi sono tre pezzi formidabili, ma aveva in testa un intero mondo sonoro, anche orchestrale. Lui ha passato tutta la vita, anzitutto voleva scrivere un'opera, poi ha trasformato quest'opera in dei poemi sinfonici, il più importante dei quali si chiama Manoir de mon rêve, cioè il castello dei miei sogni, che ha inciso molte volte in diverse formazioni, nel quale diciamo in parte influenzato dall'impressionismo francese, in parte dalla jazz, in parte dalla musica manouche. Aveva in testa tutti gli arrangiamenti, aveva in testa le orchestrazioni, le comunicava oralmente. Diceva ai musicisti, tu fai questo, tu fai così, tu fai colà. E in questo modo era in grado di poter firmare, in un certo senso, interi arrangiamenti orchestrali. Il più impressionante di questi pezzi orchestrali, concepito da Django Reinhardt come composizione, dalla prima all'ultima nota, come una composizione classica, è un bolero, come il bolero di Ravel. Si chiama Bolero. È una composizione della fine degli anni 30 che lui incide con un'orchestra a cui detta tutte le singole parti ed è uno dei pezzi più impressionanti della storia del jazz, perché mescola questi elementi manouche con elementi classici e il jazz in un modo originalissimo ed è di nuovo un pezzo modale come Appel Indirect. È un pezzo modale perché non è basato su dei giri armonici, ma è basato su delle scale che sono accostate liberamente fra di loro. È un pezzo maestoso, di grande intensità emotiva, che vi dà la misura, vi dà la misura del mondo, di quanto fosse vasto il mondo sonoro nella testa di Django Reinhardt. Non era solo un chitarrista virtuoso, era un compositore, tra l'altro un compositore spugna, abbiamo detto, con un orecchio e una memoria fuori del comune. Un compositore spugna perché, per esempio, se lui capitava in una chiesa dove c'era un organo, visto che strimpellava anche la tastiera, si metteva all'organo o subito concepiva magari un pezzo per, che so, orchestra e organo. Abbiamo una miriade di suoi appunti per composizioni estese, magari facendosi aiutare da qualche amico compositore che poi poteva stendere la partitura concretamente. Il bolero è probabilmente l'esito più alto da lui raggiunto in questo campo. D'archi. È un capolavoro. Davvero vi dà l'idea della vastità delle idee di Django Reinhardt. E ora, finalmente, lo vediamo in azione in un video. Siamo alla fine degli anni 30, credo sia stato fatto in Belgio, è un video promozionale. Non vi chiede troppe spiegazioni, c'è una voce fuori campo in inglese a cui sono stati aggiunti per la mostra di Parigi dei sottotitoli in francese. Non ve lo commento, ve lo faccio vedere direttamente. E potete finalmente vedere le dita di Django Reinhardt all'opera. And straight jazz became hot thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It is the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle. La sinistra il fratello. Joseph. Finally, here is Stefan Grappelli, virtuoso violinist of hot jazz. Le dita per fare gli accordi? Pollice? From the magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Hot Club of France. Notate la forma della chitarra, poi dirò qualcosa su questo. Molto emozionante poterlo vedere. Un'osservazione sulla chitarra. La chitarra che avete visto, che ha questa scavata, diciamo, e fu costruita appositamente per Django Reinhardt. Ed ora è da Maccaferri, che era un liutaio italiano, che costruì per Django appositamente questo tipo di chitarra, che tra l'altro consentiva, avendo questa rientranza, di arrivare su con le mani, diciamo nelle note acute della tastiera, più facilmente, perché per lui sarebbe stato più complicato con due dita gestire le note acute, e quindi in questo modo lui poteva arrivare sulla parte alta, più acuta del manico senza trovare ostacoli, diciamo così. Da quel momento quella chitarra è diventata il simbolo non solo di Django Reinhardt, ma di tutti i chitarristi manouche. Vabbè, non sto a fare commenti perché insomma mi pare abbastanza eloquente quello che abbiamo visto, ma siccome è tardi ho ancora alcune cose da farvi ascoltare e vedere, vado avanti. Arriva la guerra, e con l'arrivo la guerra accoglie Django Reinhardt e Stéphane Grappelli letteralmente di sorpresa. Sono a Londra a fare dei concerti. A un certo punto arriva la notizia che è scoppiata la guerra e letteralmente Django Reinhardt esce dall'albergo, prende un taxi, va alla stazione e parte per la Francia, senza avvisare nessuno, proprio così, senza portarsi valigie, niente. Tra l'altro, una cosa, ci tengo a sottolineare questa cosa, avete visto qui Django Reinhardt ben vestito, in atteggiamenti borghesi, molto professionale, e lo era quando suonava, quando si presentava almeno, perché non era né un campione di puntualità né un campione di professionalità, perché a volte non arrivava ai concerti, a volte bisognava convincerlo a svegliarsi. Uno dei compiti di Stéphane Grappelli, che lo esasperava, era andare a casa di Django Reinhardt a svegliarlo nel pomeriggio, dirgli: guarda che abbiamo il concerto fra un'ora. Lui dice: non voglio suonare oggi, ma abbiamo firmato un contatto. Stare al capezzale del letto a volte per delle mezz'ore, buttarlo giù dal letto, magari per convincerlo a prendere un treno per andare a suonare da un'altra parte, fargli fare colazione e faticosamente fargli iniziare la giornata. Dietro quella faccia borghese, c'è, tra la quella facciata borghese, c'è lo zingaro che compra, che gioca d'azzardo, che compra i cavalli, che compra le auto di lusso, poi nel momento in cui ha un incidente o si sfasciano le lascia lì per la strada e se ne va a piedi. Cioè, totalmente non borghese. O che dietro quell'uomo c'è lo zingaro che, orgoglioso, insegna al figlio Babic, che nascerà di lì a qualche anno, come si rubano gli orologi, i portafogli, il furto, perché fa parte, diciamo, dell'appartenenza alla comunità. Quindi c'è gente che ride, a cui sicuramente qualcuno avrà fregato il portafogli sul 64 poteva essere Django Reinhardt, insomma, colui che vi ha rapinato del vostro portafoglio. Arriva la guerra, dicevo, e la separazione fra Stéphane Grappelli e Django Reinhardt avviene così, con uno che esce dall'albergo di corsa, prende un taxi senza avvisare nessuno, e Grappelli decide allora di rimanere in Inghilterra. Il gruppo si stava in effetti logorando, anche musicalmente, e umanamente, va detto, perché i due cominciavano a sopportarsi sempre più a fatica. Grappelli passerà gli anni della guerra a Londra, invece Django Reinhardt va in Francia e qui fonda quello che viene chiamato il Nouveau Quintet, il Nuovo Quintetto, che è un gruppo dal suono molto diverso, perché innanzitutto non c'è più il violino ma c'è il clarinetto, suonato da Hubert Rostand prima e poi da altri clarinettisti, con un suono quindi più goodmaniano, perché il suono di Benny Goodman piaceva molto a Django Reinhardt. E poi qui non si vede, non solo c'è una sola chitarra che l'accompagna, il fido fratello Joseph, detto Nin Nin, ma c'è l'uomo che c'è lì dietro a fianco al contrabbassista, è un batterista. Quindi c'è la batteria, c'è un suono più potente, c'è un suono più forte, un suono più energico. La chitarra, il clarinetto, lo strumento a fiato, e tra l'altro Reinhardt si era scelto un clarinettista poco esperto perché ora aveva capito di essere la star e voleva essere la star, non voleva più condividere il palcoscenico con una personalità altrettanto forte come quella che poteva essere di Grappelli. Ora, Django Reinhardt scappa da Londra perché ha paura della guerra, ma quando torna a Parigi, di lì a poco, i nazisti invadono la città, viene fatto il governo Vichy, e ci si chiede come mai uno zingaro come Django Reinhardt non è stato preso dai nazisti e portato a Buchenwald? Cosa ha permesso a Django Reinhardt, diciamoci la verità, di vivere il momento più prospero della sua carriera nella Parigi nazista? È una cosa paradossale. Django era amico di ufficiali nazisti. Non perché lui fosse nazista, attenzione, ma nessuno lo toccava. Il motivo lo riassumo rapidamente. Quando i nazisti occuparono Parigi, Parigi tra l'altro era al culmine, come dire, del divertimento notturno, e i nazisti non ostacolarono affatto il divertimento notturno. Certo, come ci racconta, che so, l'ultimo metrò di François Truffaut, bisognava tornare a casa a una certa ora, c'era il coprifuoco, però i nazisti usavano il divertimento per tenere sotto controllo la popolazione e loro stessi amavano moltissimo il jazz, anche perché a Parigi spesso arrivavano soldati tedeschi della Wehrmacht reduci dal fronte, reduci dagli orrori del fronte, e arrivare a Parigi e godere della, come dire, dei piaceri della città, piaceri leciti e illeciti, dalla prostituzione alla musica, consentiva di alzare il morale. Ed era anche un segno che i nazisti davano all'Europa, che loro non mettevano solo bombe e distruggevano, ma potevano addirittura far vivere un momento d'oro alla città che occupavano. Django si trovò al centro di questo, era il re dei musicisti di Parigi e rimase il re dei musicisti di Parigi. È paradossale, ma questo zingaro non ebbe nessun problema con i nazisti, nessuno lo toccò, anzi era praticamente protetto, e lui ovviamente si guardò bene dal dire qualcosa, perché si rendeva conto della delicatezza della situazione. Addirittura è proprio sotto la Parigi occupata che Django Reinhardt concepisce e registra quello che è il suo pezzo più famoso, Nuage. Questa sintesi tra armonia alla Debussy e un lirismo da canzone europea più che americana, che adesso ascoltiamo, e il nuovo quintetto un po' ampliato, con due clarinetti, come li voleva Django, e non solo uno per l'introduzione, e in questa versione un memorabile assolo che nella prima parte, e questo credo che sia una prima assoluta nella storia della musica, non del jazz, della musica, questo assolo è tutto suonato con gli armonici, quindi con quel suono flautato che si ottiene appena sfiorando le corde della chitarra. Continuità. Scritto da Django. Terminata la guerra, peraltro non senza dei momenti critici, perché poi man mano che la presenza nazista si fa più aspra e la guerra prende un'altra direzione, Django per ben due volte tenta di scappare in Svizzera, cercando di attraversare il confine clandestinamente senza riuscirci, e viene respinto due volte. Però in qualche modo ce la fa. Finita la guerra andrà a Londra, rincontrerà l'amico Stefan Grappelli, ma soprattutto, finita la guerra, ha modo di lavorare, di incontrare con molti musicisti americani nella Parigi liberata, alcuni dei quali aveva già incontrato anni prima, per esempio Duke Ellington, che aveva incontrato, che era un fan di Django Reinhardt e che aveva incontrato anni prima. Al punto che Duke Ellington dice a Django Reinhardt: vieni negli Stati Uniti perché tu sei un fenomeno pazzesco, io devo farti conoscere negli Stati Uniti. Qui potrei passare la giornata a raccontarvi aneddoti da piegarsi in due dalle risate. Django Reinhardt pensava che sarebbe sbarcato in America e Ava Gardner sarebbe andata a trovarlo all'aeroporto. Era convinto, essendo uno sciupa femmine, era convinto che due o tre dive di Hollywood sarebbero andate da lui. Lui pensava di essere già conosciuto negli Stati Uniti. Pensate, partì senza chitarra, perché era convinto, sinceramente convinto, che sbarcato a New York avrebbe trovato un liutaio disposto a regalargliela. Forse fatta appositamente per lui, come in effetti era successo in Europa. Non andò così. Anzi, l'anno 1946, passato negli Stati Uniti per molti mesi, fu un anno di tristezza. Le donne americane non se lo filavano. E questo era già un dramma. Poi c'era proprio un'incomunicabilità culturale. Lui non parlava una parola d'inglese. I costumi americani nei comportamenti delle persone, delle donne, non gli piacevano, non erano in sintonia. Però certo stava suonando con Duke Ellington, con cui fece un lunghissimo tour che viene raccontato in quelle lettere che vi citavo prima, che si trovano nella mostra di Parigi e che sono riportate anche nel catalogo della mostra, se riuscite a trovarlo. Però il tour con Duke Ellington non funzionò come avrebbe dovuto, perché a causa della impreparazione di Django Reinhardt, che a volte non arrivava ai concerti, era sempre in ritardo, non era né disciplinato né aveva la testa, diciamo, per suonare con una big band, pensava sempre che tutto gli fosse dovuto, perché si credeva un divo universale. Pensate che delle volte rinunciava a concerti perché chiedeva cifre assurde, cioè magari mettiamo che lo pagavano, che vi devo dire, 1.000 franchi, e lui una mattina si svegliava e diceva: c'è da suonare. Lui diceva 80.000 franchi, cioè cifre assolutamente improponibili, perché pensava di valere tanto. Ma il tour non funzionò per un altro motivo, perché Django girò insieme all'orchestra, abbiamo delle fotografie con i musicisti dell'orchestra di Duke Ellington, ma non suonò con l'orchestra. Poiché la cosa fu arrangiata all'ultimo momento, Ellington si limitò a fare una cosa, cioè a suonare nella prima set con la sua orchestra, fare un intervallo e poi dopo l'intervallo fare entrare Django, che si sedeva su una sedia e suonava da solo. Oppure accompagnato da Sonny Greer o dai Oscar Pettiford, insomma dalla ritmica dell'orchestra di Duke Ellington, ma non con l'orchestra. Questo da un lato deludeva gli ascoltatori, perché ovviamente c'era stato un certo battage pubblicitario. Arriva il genio della chitarra, questo zingaro americano, zingaro europeo. Dall'altro, che suona con Duke Ellington, dall'altro sì, in solo lui poteva fare delle cose, le recensioni sono sempre entusiastiche, però evidentemente non poteva esprimersi al meglio. Tra l'altro negli Stati Uniti la chitarra aveva già preso piede e Django avrà l'opportunità di incontrare una serie di giovani chitarristi che si erano ispirati a lui, e scopre che i chitarristi americani avevano ascoltato i suoi dischi, seppure con molta fatica, perché i dischi francesi non arrivavano negli Stati Uniti. E c'è un'intera generazione di chitarristi americani che è cresciuta imitando e ascoltando Django Reinhardt. La chitarra jazz deve, americana, deve molto anche a Django Reinhardt. Certo, nel 39 era venuto fuori, tra il 39 e il 40, il genio della chitarra elettrica, Charlie Christian. Ma Christian aveva ascoltato Django Reinhardt. E lì succede una cosa interessante. Negli Stati Uniti Django Reinhardt si innamora della chitarra elettrica, un po' perché non trova la sua Maccaferri e gliene danno una elettrica, e scopre che sulla chitarra elettrica può fare delle cose nuove, diverse. Siccome un musicista, l'avete capito ascoltando il Bolero per esempio, è un musicista che non sta fermo con la testa, è uno che guarda avanti, uno che ha bisogno di idee nuove, la chitarra elettrica gli stimola qualcosa di nuovo, e poi scopre un'altra musica prima ancora di andare negli Stati Uniti: il bebop. Ascolta a Parigi i dischi di bebop, di questa nuova musica, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie che aveva incontrato a Parigi, con cui aveva stretto una piccola amicizia, tant'è che appena arrivato all'aeroporto chiese: dov'è Gillespie? Cioè, se l'aspettava lì all'aeroporto, ma letteralmente, e fu la prima persona che cercò negli Stati Uniti. Il bebop rappresentava per lui davvero la nuova frontiera, e per un musicista nato nel 1910, quindi di un'altra generazione, che nel 45 aveva, diciamo, 35 anni, quindi già formato, questa idea di abbracciare un nuovo linguaggio era un gesto molto audace. E questo fu il senso dell'avventura americana, la scoperta del bebop, la scoperta della chitarra elettrica. Allora, questo che vedete, che faccio scorrere, è un filmato in un club che gestiva Django a Parigi alla fine della guerra. Si chiamava il Tabaret. La gente andava, ballava. Questa era la Parigi con gli americani, finita la guerra. Django aveva investito parte dei suoi soldi nella gestione di questo cabaret. Eccolo. Guardate chi c'è. Marlene Dietrich con Django Reinhardt. Ballano il Lindy Hop. Tanto per darvi un'idea del clima della Parigi dell'immediato dopoguerra. Allora, vorrei avviarmi alla conclusione ascoltando ancora un paio di brani che ci danno l'idea dell'evoluzione dello stile di Django Reinhardt. Il primo brano è del 39, quindi prima della guerra, faccio un passo indietro, ma ci mostra in maniera memorabile, secondo me, un Django diverso, non il Django della discontinuità, ma il Django della continuità. L'assolo che sentirete in I'll See You in My Dreams, con un gruppo leggerissimo, la chitarra solista, una chitarra di accompagnamento, un contrabbasso, basta, sono in tre, con un suono meravigliosamente leggero. In questo assolo è uno dei più copiati della storia del jazz manouche. Non c'è chitarrista manouche che non sappia suonare questo assolo. Sentirete che, diversamente dalle altre assoli di Django, è costruito come un assolo di Lester Young, cioè a catene di motivi. È uno sviluppo quasi beethoveniano. Da un motivo ne scaturisce un altro, che viene ripetuto, variato, andando avanti un motivo dopo l'altro. E l'immaginazione melodica di Django Reinhardt è pazzesca. Reinhardt, come Lester Young, è uno dei più grandi melodisti del Novecento. Tutti gli assoli che lui suona sono tutti diversi. È un musicista che pensa per melodie. Sentite che meraviglia. Tema. Il disco dura solo 3 minuti, ma poteva andare avanti per 20 minuti, è veramente da pelle d'oca. L'ultimo brano di questa sezione, per avviarci verso la fine, è un omaggio a Roma. Nel 1949 Django Reinhardt passò diverse settimane qui a Roma, suonò con dei musicisti italiani, si esibì in dei locali di Roma e incise una cinquantina addirittura di brani, tra i quali scelgo un altro standard che si chiama I'll Never Be the Same, ed è un omaggio, diciamo così, al Django Reinhardt romano. Siete seduti sulle stesse poltrone sulle quali... No, non si è seduto Django Reinhardt, ma insomma, comunque sullo stesso, sulla stessa base, con la chitarra elettrica. Ah, c'era anche Grappelli, dimenticavo. Gli altri sono musicisti italiani. Thank you. Così, grazie. Così, visto che è tardi, vado dritto agli ultimi ascolti. Salto un filmato che non vi faccio vedere, da un film italiano e francese, si chiama Saluti e Baci, uscì in Italia, molto divertente, ma adesso non abbiamo il tempo, dove Django Reinhardt fa proprio lo zingaro nel treno che dà fastidio a dei borghesi e intanto suona. Al suo fianco c'è Babic, suo figlio, che diventerà anche lui un grande chitarrista, e a cui dedica, a Babic, un brano che è diciamo, il penultimo che ascoltiamo oggi, che è questo. Aspettate, no. Allora, chiedo un attimo di pazienza. Ascoltiamo ultimi due brani. Il primo è questo. Ve lo faccio vedere così, avete visto anche devo dare 10 euro a Catucci. È un pezzo bebop. Qui sentite, in questi ultimi due brani che voglio farvi vedere, hanno le seguenti caratteristiche. Uno, la chitarra elettrica. Django Reinhardt con la chitarra elettrica capisce che può utilizzare un altro tipo di tecnica ancora, per esempio quella di far risuonare le note dissonanti più a lungo, con più forza. Le dissonanze del bebop sulla sua chitarra elettrica diventano ancora più dissonanti. E quel fraseggio veloce, a volte le maglie si allargano per permettere a queste dissonanze di risuonare, o a volte si stringono per permettere a queste dissonanze di accavallarsi. È una versione singolarissima, manouche, del bebop, che si trova per esempio in questo pezzo che si chiama Babic, che è ispirato a Coco di Charlie Parker, che ascoltiamo per intero, che è bellissimo. È un nuovo Django Reinhardt, quello con la chitarra elettrica. No, non riesco a farlo partire come si deve, lo faccio così. Eccolo qui. Anche se lo schermo è vuoto, non importa. Quintetto, clarinetto. Sentite il fraseggio vivo. Thank you. sono più la Goodman qui. Negli anni del dopoguerra Reinhardt suona nei club su Saint-Germain-des-Prés, ma non ha più il successo che aveva durante gli anni dell'occupazione nazista. È un musicista conosciuto, rispettato, ben pagato, ma sono finiti i tempi di Nuage, che Nuage era diventato praticamente l'inno di Parigi sotto l'occupazione, al punto che Reinhardt a un certo punto abbandona la musica e si dedica a un'altra forma d'arte, la pittura. Ritraendo il figlio e soprattutto modelle nude, donne, sono nudi femminili, alcuni in interno, sono o nudi femminili oppure paesaggi. Questi sono, diciamo, i due mondi espressivi di Reinhardt. Sono quadri non particolarmente belli, ma affascinanti, perché erano in mostra anche alla Mostra di Parigi, perché mostrano un altro aspetto della sua creatività, per esempio l'attenzione al colore, il modo quasi vagamente alla Modigliani con cui ritrae i volti e i corpi femminili, quindi cercando questi ovali appunto di corpi zigani. Lui si dedica totalmente, proprio mette da parte la chitarra, si dedica totalmente alla pittura per un po' e addirittura lascia Parigi. Alla fine degli anni 40, nei primi anni 50, Django Reinhardt lascia Parigi e va a vivere in campagna. Non vuole più stress, vuole stare tranquillo, non vive in un carrozzone, vive in una piccola casa e si dedica ad un'altra delle sue attività preferite, che è la pesca. Andare la mattina a pescare e passare la giornata in silenzio così. Ha però modo di registrare ancora qualche disco. Io vorrei farvi sentire finalmente l'ultimo ascolto, poi davvero vi lascio andare. L'ultimo ascolto, per la Decca del 1953, l'anno della sua morte. Django Reinhardt muore per una sorta di colpo apoplettico, insomma un problema cardiaco, ha un embolo e muore improvvisamente. Lo portano in ospedale, ma non c'è niente da fare, ha soli 43 anni. Ma a 43 anni Django Reinhardt aveva già di nuovo cambiato direzione musicale. Il pezzo che sto per farvi ascoltare, che si chiama Deccafonie, dedicato alla Decca, la casa discografica, è un pezzo di una bellezza enigmatica, è un pezzo bebop, molto rapido, ma vi prego di ascoltare attentamente l'assolo con la chitarra elettrica, perché è completamente astratto, c'è tutto il suo virtuosismo, ma da un punto di vista espressivo è un pezzo veramente fuori dall'ordinario, fuori dalle tendenze poi del jazz dei primi anni 50. È davvero una nuova strada che aveva individuato Django Reinhardt. È un blues. Sentite che suona. Thank you. Pezzo impressionante. E allora la prossima volta che andate a un concerto rock e vedete il chitarrista che si agita come un matto facendo il divo assoluto, ricordatevi che appunto la chitarra come strumento, la chitarra moderna, la chitarra solistica, la chitarra virtuosistica, la chitarra come strumento espressivo con una gamma di possibilità molto ampie, è nata in Europa, l'ha inventata un manouche che ha fatto un'operazione in maniera spontanea con il suo enorme talento culturale, il talento musicale, un'operazione unica che parte dalla Musette nei locali di Parigi, si mescola con il blues americano arrivato in Europa con la tradizione modale manouche medio orientale e indiana.